parlando, perché devo interrompere chi parla tranquillamente, punto interrogativo. Sì, ma tu sai benissimo, questi 5-10 minuti è dovuto sempre a una o due persone che ci sarà un po' di battaglia per far vedere quello, per fare quell'altro, e poi tutto finisce lì. Lo so, loro lo fanno per scherzo, per cosa, per piccole soddisfazioni, però disturbano anche gli amici. No, non la vedo come te. Io non la vedo così liscia come la vedi tu. Io la vedo una cosa più seria, che è una cosa che ha disturbato ieri sera gente che stava parlando tranquillamente, gente che ogni sera si trova per passare qualche minuto diciamo sereno, e invece viene disturbato da queste portate. Non è giusto, non è per niente giusto, non lo vedo per niente giusto. Ragazzi, scusate. Mi piace veramente fermare il questeo, perché invece parlare con persone intelligenti e poi la forza di parlarci, di sentirci eccetera, si prende con una certa familiarità, e questa è una cosa molto, molto carina, mi fa molto piacere. Però purtroppo se non vado mi scappa c'è l'endola, e poi a quest'ora devo cambiare QTH. Ti ringrazio molto per il questo, molto, molto bello, sembra molto piacevole, alla faccia di chi mette la portante, alla faccia di chi non li piacciamo, alla faccia degli ascoltoni che pensano male, e che saluto, perché lo sapete che in questa frequenza non siamo da soli, no? E, ripeto, amici, il mio QRT, vi lascio continuare il vostro questo. Ci sentiamo domani, grazie. Ciao Fabio, è stato un piacere anche per me parlare con voi e fare un discorso pacato, tranquillo, come poche volte si può fare. Va bene, dai, avanti Tonino. Ok, questo è il mio scambio. Ciao Fabio, non ci devi ringraziare assolutamente niente, perché è un piacere, diciamo, trovare persone come te, come Gianni, fare un po' essere tranquillo seriamente, però mi piace, e lo fai veramente sereno. Tutto qua, mi fa piacere che domani ci conosciamo, ci prendiamo un brasiliano e possiamo parlare anche di persona, in persona te tranquillo, l'importante non ce ne metto nessuno. D'accordo, buon QRT, buon trombato se lo fai per domani, e poi già ci sentiamo giovedì. Ok, per quella parlato lei. Ok? Ciao, buonanotte Fabio, di nuovo grazie. Ciao, buonanotte ragazzi, a domani. Ciao Fabio, buonanotte. Avanti tu. Vai, scappa. Niente, io sono sicuro che domani alle 4:30 sono già in terra. Ma a me succede così, più tardi mi curi che più presto mi alzo, mi fa così, boh. Anch'io, io ho già caricato la macchina, la roba che devo portare mio figlio, capito? Insomma, io dico, da poco era qua, ma se non poteva prendere lui, no? E dato che viene a trovarmi, mi porti questo, questo e questo. E va a tagliare in varia. C'è chi gliela porta, non c'è mano manco. Poi gli ho dato già una scheda a nome mio. Lui praticamente non carica mai, perché sul mio conto corrente viene caricata. Da poco l'ho fatto fare un'altra ricarica, ma scusa, come mai? Sei su, ci sono sempre in banca e te lo carica. Non è che tu siate le vie di mezzo, chissà a chi hai chiamato e ha fatto pagamento, perché mi sembra strano che va a zero. Non lo so, chissà che è successo. Meno male stasera ci hanno lasciato tranquilli, dai. Lui dice la Belè, me la sono persa. No, Belè è domani, cosa stai dicendo? Ah, domani? Sì, tu sì che vale se domani. Ah, e allora va bene, allora ha sbagliato una persona che mi ha scritto stanotte di sognare Belè. No, domani. Comunque, domani non mi trattengo, mi guardo il programma perché c'è la profamina. Ma te lo guardo? Sì, sempre. Mi è molto simpatico come presentatore Gerry Scotti. E anche Maria De Filippi. Anche a me Gerry Scotti mi piace molto, ma Maria De Filippi non tanto. Gerry Scotti ha una sensibilità come uomo che è una cosa allucinante. È molto sensibile, molto vero. persona. Sì, l'ho notato. Si commuove spesso e volentieri quando c'è qualcosa che commovente. Zirbi non mi piace. E neanche cosa, quell'altro, come si chiama, non mi ricordo adesso. No, non piacciono manco a me. Nemmeno a me piace. Né Zirbi né l'altro, né cosa, vabbè, già abbiamo capito. Non mi piace, quello che è convinto di essere un prestigiatore, che alla fine è sempre sul prestigiatore. E un Teucoli. Esatto. Vabbè, comunque non mi piace nulla, a me mi piace solo Giuriscutti. Maria De Filippi così così. A volte mi è un po' antipatica le battute che fa. No, ma aspetta, a me mi piace fare, vorrei trovarmene per buon basta. Ma insomma. La farei gridare, ragazzi. Ah, che poi ti spaventi. Ti spaventi perché quando dice ti amo. No, mi guardo quel programma perché ci sono veramente tre personaggi che fanno dei lavori o acrobazie molto strane e belle. Che me ne guardo bene e dico, cavolo, una barata, qua ci sono parecchi anni di lavoro, ma stiamo scherzando. Sì, e quindi pago veramente. E quel guasto di coso, di Zirbi, si permette di criticare i lavori, cazzo che sono, ti fa lasciare la bocca aperta, guardate. Se hai notato Zirbi, quella sempre se ne sono le donne, allora lui sbava. Sì, sì, è vero, è vero. Per carità, che personaggio. E trovi amici e c'è lui, e trovi Luci che va e c'è lui, se trovi in mezzo alle palle c'è uno. E quelli si ritrascina mai di figli. No, no. Sacco io vado a Maurizio Costanzo, in lì, camere separate, e tu pensi che lì non troverai con altre persone, ma... Perché Maurizio Costanzo è russa come un maiale. A parte che è russa, però giustamente il marito, scusa, lì si è messa con lui per fare successo e lo sta facendo, grazie a Dio, con i soldi che sta facendo. Perché certo non l'ha sposato per amore, no? Però è stata umile, l'ha detto. Ha detto, se non fosse stato per Maurizio Costanzo io non sarei stata qua. Vero, verissimo. Beh, Maurizio Costanzo era un ottimo giornalista lì. Atta. E dopo è una peciccia con Berlusconi. Chi è che è finito male, vedi, coso, Emilio Fede, anche se era un accanito sostenitore della Forza d'Italia. E poi quando l'ho visto su Facebook, ha detto, non ce la faccio più, sono 6.000 euro al mese, cazzo mai niente, gli date 400 euro, hai vinto con 6.000 euro, andata a fare da, avrebbe preso il tacco in culo, cazzo. Che schifo che fanno, cazzo. Ma schifo, c'è gente che piglia 400 euro al mese, ogni due mesi, cazzo, ma fine mira. Non li basta, perché lui dice che era abituato a fare una certa vita e adesso con 6.000 euro non li bastano, capito? E non parliamo di Alvaro Vitale, un altro che sta mangiando il mondo, allora che vive con una piccola pensione, si muore pure a pendì, a calci in culo avrei preso. Alvaro Vitale, Pierino. Eia. Quanti soldi sono mangiato tutti i primi che ha fatto? Non c'è più niente. Perché diventano viziosi, Tony. Quando si vedono i soldi in tasca diventano viziosi. E poi si lamentano. Non lamentate che sono persone che vivono con due spicci che portano le sedie. E lui si fa lamentare. Ma fai. E gente che non c'ha proprio nulla, manco uno spiccio, voglia. Quanti ce ne sono che vanno a cercare la roba da mangiare, di anziani specialmente. E vanno al mercato dopo che finisce tutta la giornata, vanno a frugare la roba che avanza. Allora fanno la pena queste persone, eh. A me è capitato una volta sul mercato, alle Rospini, lì alle Cocce, ero entrato, mi ricordo che cosa. Alla casa c'era questa vecchietta, le schiene mi faceva una tenerezza, mettere roba sul nastro, arriva a pagare, e un poverino gli mancava, mi sembra un 1,50 o 1,80, dice la commessa, allora gli togliamo questa, anche là se la guardavo, poverino, e allora si serve, lo pago io. quando vai se così manca tutti questi mangiare, come può essere su? Poveracci, fanno una pena qua. Ui, ui. Per carità, c'è gente che sta mai male davvero, eh. Noi non ci dobbiamo lamentare, tu, io, diciamo, confronto a molta gente sto bene. Ma io neanche mi lamento. Posso dire, sono fortunato. Perché grazie a Dio sto bene. A parte il lavoro che ho sempre fisso e qualche pensione che sto prendendo per il peso di acciacchi nella vita, però ripeto, io sto bene. Adesso molte persone sono messe male veramente. E io molte volte mi medesimo, dico, cavolo, ma se ero io così, ma ci penso. Io penso sempre alla vecchiaia, dico sempre, chissà se finisco male, se finisco bene, dove finisco, quando sono anziano. Ho due figli, sì, ma uno è fuori, l'altro dovrà partire a Bologna, all'università, lo stesso. Vuole andare a Bologna dove c'è la sorella, quindi io, diciamo, a Bologna non mi sono mai andato, non penso di viaggiare, di cose. Ho le mie cose qua, c'ho il cane, c'ho tutto quanto, non mi posso muovere. Anch'io ho due figli già. Oggi era il compleanno di mia figlia, le ho fatto la torta, le ho regalato soldi. Io lo voglio per bene anche mio figlio, vedi, domani ci vado a trovare mio figlio. A me voglio un per bene, ci tengono un bene. Quando mi hanno ucciso il cane qua, io piangevo forte perché ero ben attaccato, ben affezionato. Sai che mio figlio da posato ha preso la macchina e è venuto qua a trovarmi. Lo so. Tony, sono come i figli i cani quando ce li hai, molta gente che non ce li ha, ne parla male, cosa, ma non ha mai avuto il cane per sapere quello che ti dà. Ti dà tutto, ciò che una persona non ti dà. Tant'è vero, dicono anche, meglio un amico cane che un cane amico. Meglio un cane amico che un amico cane. Vabbè. Un amico cane che se è meglio di me. Mi ha casino che fa. Sarà la stanchezza. Sì, è vero. Anche nei brutti momenti ti sta sempre vicino. Quando io stavo male, che sono tornato a casa dall'ospedale, non mi reggevo in piedi, stava sempre nel letto con me, coricato vicino a me, non si muoveva di un millimetro. Guarda, i miei sono piccolini, però ti dirò, non mi vergogno di dirlo perché sono una persona abbastanza umile e tutto quanto. Io, quando ho preso questi due cani piccolini, da piccolini stesso, stavo ripensando il cane che mi hanno ucciso, mi sono sceso due lacrime. Il cane che c'avevo qua adesso, questi piccolini qua, mi sono avvicinati e mi stavano leccando, poverini. Hanno capito che stavo male. Sì, è vero, se ne accorgo. Ma quindi sono fratelli tu? No, sono due sorelle, sono sì, stessa cucciolata. E sarebbe la sorella del primo che mi hanno ammazzato. E non è mai capito che te l'ha ammazzato. No, già. So che l'hanno ucciso qua dentro e l'hanno messo fuori dal cancello per far capire che è uscito fuori e l'hanno ammazzato la macchia. Allora, Gianni, non sono andato ieri. Se il piano usciva fuori, una macchina metteva sotto, la cancello ci usciva 40 metri più avanti, perché era piccolo. E non si fermava, tornava indietro per terrore lì, perché qui passano veloci. Quindi, non ho potuto neanche guardare per terra la macchia di sangue perché il giorno aveva piovuto. Quando sono arrivato al lavoro era caldo a correre il cane, era appena ammazzato. Quindi, eppure ha chiamato quello e l'ho dovuto chiamare prima, quando mi ha sentito piangendo, l'ho gridato, cazzo, per il cane, poverino, l'ho preso in braccio. E l'ho visto lì, non l'ho voluto toccare, ho detto, quando lo vede lui, e a me pare che sia proprio lui, perché è andato a prendere la sua compagna a 1:30 e ci è uscito lo sparato, l'ha preso infatti con un paraurti e l'ha sfondato una parte della tempia. Io ho augurato questo, che chiunque sia stato le succede la stessa cosa che a lui. Pezzo di merda. Ma tu pensi che l'abbia fatto apposta o che magari il cane sia uscito e l'abbia investito? Allora, io non dico che l'ha fatta apposta, però lo incrimino molto più forte perché me l'ha nascosto, l'ha preso e l'ha messo fuori. Quello mi fa più incazzare di più. Magari per non per sviare l'indagine, vabbè, ma era piccolino. 7-8 mesi. Vabbè. Comunque, cosa sono quei cani lì? Sono da caccia, no? Uno da caccia lo c'è un passotto. Ma quello che è morto non sai quanto era intelligente già. Un me. Ci credo. Io sto male anche quando peso, sta male, c'ha una cosa, la cista, la prostata, ogni volta gli fa perdere sangue dal pisello, devo fare la cura, antibiotici, questo, quell'altro, quando lo vedo, guarda, mi metto a piangere, mi fa male. Guarda, ti dirò cosa mi è successo a poco a me. Quella piccolina che è sempre in crema a me perché ci tiene a me, è la più cocova. Da poco non so cosa è successo, per il traverso qualcosa, non riuscivo a respirare. Adesso guarda, mi si è drittito un beruga. E mi scisa pure qualche lacrima, per me non mi molare anche tu, porca miseria. No, stiamo scherzando, no, meno male fosse ripresa, Io lo fanno perché sono in gobbia, a volte non masticano bene mangiando e la salita è solo crocchette. Crocchette, aspetta, crocchette non fisse ce l'hanno. E brutti con provoso di bue, con un po' di carne soffiata, spalletti. E mi compro i biscottini per i cani, mi compro lo stick per i cani, io mangio la pasta asciutta, non la sugo, la taglio a pezzi piccoli piccoli, c'ho sono spaghetti, e minestrone qualche volta lo mangio, qualche volta lo mangio, mangio tutto quello che mangio io di solito. Ho capito, no, io li faccio di pasta a parte, io li faccio carne, pasta senza sale, carne mattina e sera, fetti di pollo, fegattini di pollo, cosa ti posso dire, rene, tutte queste cose qua, con la pasta, un po' di formaggio grana padano e via. E lui è perfetto, mangia tranquillamente, è difficile farlo normale, gli metto anche due pugni di crocchette di quelle buone, mezzo una roba da mangiare. Guarda, io sinceramente la carne di pollo non gliela do più, perché ho visto che due volte di l'altro, due volte ha fatto diarrea, quindi non gliela do più. Quando mi faccio rosso la carne, poi capocollo, gli do la carne anche a loro con l'osso, io credo mi sento con l'osso. No, per l'osso lo prendo proprio perché è loro, capito? Ma grazie a Dio l'acqua gliela metto con la bottiglietta, non te lo dietro. Mi tratto veramente bene già. Tanto è vero che è un'amica mia, ha detto lì, e quando li vinci questi cani, dove vai tu che con loro? E beh, perché mi vogliono bene, lo sanno. Anche io gli do l'acqua della bottiglia, la stessa cosa, ma non solo ai cani. E io anche agli vicini gli do l'acqua delle bottiglie. Anche così, scusa, lo stesso tutto ci butta nell'acqua del rubinetto. Io lo uso soltanto quando devo cucinare la pasta, l'acqua del rubinetto, perché deve bollire e poi la butto via. Se devo fare minestrone ci metto l'acqua della bottiglia, perché io il brodo lo mangio, come faccio un brodo di minestrina, allora è lo stesso, acqua e bottiglia. Quindi, oggi sono anche più giù, a lei ieri ci sono subito le auguro. Quanti erano una cosa, io nel 2, guarda, sono troppo contento, troppo. E la 50 mi dice, e ti hai preso 2 terremoti, a me mi piace, ma non sai quanto mi danno compagnia. Anche a me. E lui è sempre vicino, adesso lui c'è una coperta sul letto, se è sicuro che è vicino a me, torna con me, capito? Quella che mi hanno ucciso, e mi aveva in cucina, mi guardava, andiamo, come vorrei, aiuto, via, come vedo sul letto, scoricavo vicino a me, intelligente, questi non mi fido, non so mai che mi piscono nell'epoca. E così fa lui, è una scena, e se ha preso le stesse abitudini le mie, se mi faccio la pennichella, lo compro, lui viene, mi guarda, aiuto, e viene subito. Sono intelligenti, insomma. veramente sono affrontato. Poi quando arrivo con la macchina le vedo in piedi, sono piccolini, e piedi sul cancello che guarda, e allora io, vabbè piccolini, comincio a scondizionare contenti i soldi che fanno, guarda, lo metto nel cancello, mi accompagnano fino alla porta di casa saltando, troppo doglia. Tu liberi in campagna, li lasci liberi? No, io li lascio liberi nel cortile che ho dentro. Io allora, io quando arrivo con la macchina ho un cancelletto, entro il cancelletto, lo richiudo e ho tutto quanto il giardino dove loro corrono una parte all'altra, è abbastanza grandetto, e poi sono a casa. Ah, ecco. Sì, ma dico, lasci liberi, non li leghi, non lasci le gatti, dai. Assolutamente no. E così è Tyson, Tyson è sempre libero in casa, devo stare molto attento perché ha un carattere particolare, e lui è un cane da difesa e praticamente non riconosce tutti, se non ti conosce è molto cattivo, non fa toccarlo perché se no non si vede. Però se vede che io ti accarezzo, dico questo è un amico, si mette a scodinzolare e ti fa le feste. Allora, quella marroncica, quella da caccia piccolina, che è curiosa e più vincente non è infatti, è un bel tiriosa. Quando è entrato Vittorio, ha fatto un casino, l'ha più sinistra, ha fatto un casino a Bagene, voleva musicarlo. E io allora sfidavo, fate una cuccia. Quando è venuta poi la compagna, cioè Vittorio, un casino anche a lei. Come passo la macchina, subito si muove a già. Fanno, guarda, già, una guardia che è micidiale. E poi il bassotto segue, qui è pagliato. Il bassotto è un cane tirrioso. Ce n'è uno vicino a casa, lo lasciano libero in cortina, ma devi vedere che guardia che fa. Sì, e poi è molto più grosso dell'altro. Poi l'occhio, che se mangia tutto questo ci mangiano, ma prende in varia. No, Tyson già c'è tutto quello, lui ci ha mangiato una cuccia di pollo intera col petto attaccato, un piriguato, più la pasta, le crocchette. E non le dare ossa di pollo però già, No, glielo spolpo il pollo, mi tolgo la polpa e butto. Io la notte non le lascio fuori, Ho una cuccia enorme già, grande, veramente grande, ci stanno bene dentro. Però una notte le porto dentro casa, anche stamattina trovo qualche pisciattina, qualche cagattina, pulisco, non mi frega niente. Apro poi la mattina presto la porta di ferro che ho e le faccio uscire in cortile, però quando c'è già luce. Disinfetto tutta la casa, tomato, poi faccio colazione con calma, capito? Però sono liberi, non le tengo mai legate, poverini. No, io avevo un amico che ce l'aveva legato il cane, però ne aveva fatto un filo di ferro lungo tra un albero e l'altro che prendeva tutta la casa e loro potevano passare da una parte all'altra della casa. Se ti avvicinavi ti musicava. Sì, ma non le tengo legate perché non mi piace. Assolutamente no, loro devono essere liberi. Infatti molte volte si vanno nella cuccia, sicuro non sono stanchi, sicuri che e mangiare non le manca mai, perché come le metto fuori dalla mattina già mangiare l'acqua c'erano già fuori. Io una volta le lascio tutto il giorno fuori, le lascio. La sera rientro loro, oppure una volta mi sono spaventato, questi cani dove sono? Sono spariti, chiamandoli niente, esco fuori, vado fino al cancello in strada, niente. Spaventato, guarda, ti credo, ti giuro già, non sapevo cosa cazzo pensare. Dopo tanto deve essere due c'è dalla cuccia, venite forse, la mazza viene in scena, ragazzi. Tieni dentro la casetta. Io c'ho una casetta che è enorme, ma dove faccio la foto alla mamma, cazzo che mamma. E tocca, loro mi piace, la piccolina è fatta sempre di la luna, quella da caccia. E anche il bassotto da caccia, il bassotto è per i coniti. Però è un carattere più tranquillo mi sembra, più affettuosa l'altra. Sì, l'altra molto di più. Però è geloso il bassotto, perché vede che toccano molto con la piccolina, capito? E se è geloso, allora molto altro mi ringremo anche a lui, e non carezza tutto, mi lega tutto. Vabbè, adesso ti prendi il maschio, mi parli di Riccardino, c'è l'allevamento dei bassotti tedeschi. No, non sapevo. ce l'ha di campagna? Sì, sì, c'è l'allevamento lì, c'è i bassotti, poi c'è i pastori austriaci, o come si chiama, quelli che assomigliano al culo, però sono più bassi. Capito. Vabbè, ben lì sono quanti colini. Vaccini fatti per il microchip è tutto a posto, tutti e due. Adesso, il prossimo febbraio, devo andare a fare il vaccino. Mi ha fatto richiamo e tutto. Sì, sì, vabbè. Ah, è così anche l'altro, poverina, devo fare il richiamo l'altro anno. No, quest'anno devo farlo, a me me l'ha mandata prima, vabbè. No, io gliel'ho fatto per 2 anni e è quello che vale 2 anni il vaccino, capito? Quest'anno non glielo faccio, glielo faccio il prossimo anno, sempre che vale 2 anni. A me mi ha fatto appena, dunque ho fatto 2 mesi, mi ha fatto il vaccino, tutte e due. Dopo un mese mi ha fatto il richiamo e mi ha detto ci vediamo un anno e le ha messo poi i microchip. Sì, sì, anche io ce l'ho. A te c'erano le guardie zuffi che lo stavano controllando, gli hanno messo la macchinetta nel collo, ha fatto B come fa la macchinetta, perché riconosce tutto da lì, non c'è bisogno di libretto, c'è scritto se che era fatto vaccini, tutto. Come ha fatto B, e te sono wow! Se vuoi poco non è un sì, che già fatto il tempo e tempo anche di tirare il zacco. Quanto tempo c'è che è tua? 5 anni c'ha adesso. Già grandetta là, tu pensi me. Dunque, sono nate novembre, 7 mesi già, no? 5 anni, non voglio pensare quando finirà la sua vita, guarda, che starò male veramente. E poi, ci parlavo con l'altro che abbiamo ucciso, ma non te ne intelligente, dopo la invenzione, sei tu che mi ti busca a me, giochiamo qua e là, c'ho tutto il tempo per te, e poi invece poverina, vabbè. Niente, queste c'erano 7 mesi, sono ancora incioccattabili, ma quanti spetti fanno già? Non posso lasciare il gilet con le tasche aperte che c'è fatto il fazzolettino perché ti trovi nevicato per terra. Un giorno se capita ci portiamo a Tyson e li facciamo giocare, tanto Tyson gioca, non li fa nulla, se sono femmine non li fa niente. E perché no? Lo porti qua, guarda, e si diverta, c'è tutto lo spazio per giocare loro, non vogliamo. Ma sai com'è correttare, non sembra un rallentatore fatto correre, cazzo, è troppo bello. Che cane è? Sharpie cinese. Quello che c'ha la pelle riccia. Che c'ha? La pelle è tutta arricciata. Chi è che stai dicendo? No, quello lì è quello americano. Allora, la razza base è quella che ho io. Poi gli americani hanno incrociato col ciucciù quello cinese e hanno fatto quella razza che ha il muso grosso, no, non è così mio. Però vedi, se avessi avuto un cortile come ce l'ho io, già, stava anche meglio il cane. No, ma aspetta che te lo mando. Adesso mi ha scritto che fai già la pipa, quarantena di prostituta. Ah, ecco, adesso. Ha visto che mi ha scritto, Se sei un bel tendico, cazzo. No, se tale uno c'è le iene. Ma sta interrogando, sta fracassando. Ha visto che mi ha scritto, tutta sconosciata, Non è guardia, non è nuda. Poi, lascia le dai. La donna devo sbagliare io, se non sei già nuda non mi fate finito. Ti fa schifo così. Fa schifo, ma non attira più a me, mi piace molto spogliarla io, piano piano toccarla, sfogliarla, pensa una volta. E sulle mutande ci vedo pure. Cioè le mutande ci rischi. Si vede che è una zoccola, tutte le parrucche c'hanno, pure i vestiti. Dunque, la goccia, dai qua. E poi già. E si pisini c'ha pure. Mi pare che andiamo, mi sto quasi addormentando. Toni, ci sentiamo alle prossimine. Buon viaggio per domani, divertiti. A tuo figlio, stai ben bene. Ok, grazie già. Dai. che già pensavo per lì. Ci sentiamo, ciao, buonanotte, a domani, ciao ciao. Buonanotte. Ciao ciao. Buonanotte anche a tutti gli ascoltatori. Identico.